Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Allora, 1° agosto, ciclone, anticiclone nordafricano in arrivo, temperature da paura, che cosa volete fare? Si va tutti in vacanza, cosa che faremo, ma no, cosa avete capito? Non tutti convocati in vacanza, tutti convocati non ci va mai, perché tutti convocati sta all'aria condizionata qui in Viale Monterosa. Vi portiamo però in vacanza sportiva tra poco, Giorgio De Luca, il nostro autore, e Filippo Aureggi sempre in regia. Da dove si parte? Beh, da Milano. Si parte da Milano e si parte dalle cose di casa nostra, ma poi si prende già un volo per Dubai e poi appuntamento a un particolare bar dopo la borsa per un giro sui colli bolognesi. Intanto, dicevamo, partiamo da qui, da dove ci troviamo, da Milano, dove è sede la Gazzetta dello Sport. Carlo Laudisa, buongiorno. Ciao Carlo, ciao a tutti. Allora, che cosa ci aspettiamo in questi primi giorni di agosto, oltre alle temperature pazzesche in arrivo? Sul mercato, che caldo fa? È caldissimo, torrido, afoso, scegliete voi le qualità, ma siamo al top. Io noto, io faccio il termometro, non tanto della temperatura, quanto degli umori della gente, continuo a raccogliere un sacco di preoccupazione da parte degli interisti. Oggi è arrivato Vessino, ad esempio, che è un eccellente giocatore, tutti continuano a dire che il mercato non è chiuso qui, però ma lo noterai anche tu, no? Andando a prendere Cappuccio alla mattina sono tutti preoccupati. Eh sì, sono tutti preoccupati perché comunque si passano i giorni, la Juve ha fatto, il Milan ha fatto tantissimo, l'Inter ha fatto poco. L'Inter farà, no? L'Inter farà, lo ha detto Zhang ieri, il figlio del capo, e quindi siamo tutti fiduciosi. Con Sabatini e Ausilio in sella, peraltro, c'è da aspettarsi di tutto. Molto dipenderà dalle scelte di Perisic, perché su Perisic, sulla sua trattativa con Manchester United si è parlato da mesi, però se Perisic dovesse rimanere, diciamo che sarebbe un bel colpo, no? Come se la Juve riesce a trattenere Alessandro, per il quale evidentemente il Chelsea è arrivato a offrire 70 milioni, quindi stiamo parlando di giocatori al top, che già trattenerli significa fare un'opera di irrobustimento che non è scontato. Cioè, mercato alla napoletana, Carlo. Mercato il Napoli è quello che alla napoletana, cioè di conservazione, no? Ci si rinforza conservandosi. Sì, beh, la differenza è però che il Napoli, rispetto all'Inter, ha delle certezze che in questo momento in Campionato Azzurra, sicuramente l'inizio del campionato è stato eccellente, con Spalletti che ha subito dato un'identità tecnica, tattica e anche mentale alla squadra, quindi i segnali sono positivi, però da dire che ci sia già la certezza che l'Inter sia in grado di essere migliore delle altre, migliore delle altre, però torniamo a un anno fa quando dicevamo che comunque l'Inter aveva un organico competitivo, poi si è sfasciato tutti in maniera clamorosa, come ben sappiamo, un anno fa stavamo dicendo che l'Inter aveva un organico da scudetto quasi, no? Lo ha più o meno conservato, ha un allenatore che è in sella stabilmente, che è forse il valore aggiunto dell'Inter in questo mercato. Dunque, se 1 più 1 fa 2, cosa che non sempre nel calcio succede. A proposito di numeri, 800 24 00 24 è il numero verde per venirci a trovare, a salutare, fa sempre piacere. Casting del Milan, alla voce attaccante, siamo sempre a girare intorno, no? Gioco dell'Oca, torna via. Gioco dell'Oca, e sono 3 i nomi, no? Kalinic è il più vicino, però all'orizzonte ci sono sempre Aubameyang e Belotti. I sogni tutt'altro che segreti del Milan, però evidentemente anche costosi, quindi è una partita che io credo che sarà vincente da qui al 31 agosto. Ma perché c'è qualcuno che parla addirittura di a proposito di fantasia, di nomi come Cavani o Ibrahimovic? Secondo me sono cose che stanno... Beh, noi ce l'abbiamo. Sì. Devo dire che l'altra settimana, in un pezzo sulla Gazzetta, ho lanciato due o tre idee, no? Paradossali, che erano Ibrahimovic al Milan, Di Maria all'Inter e Thiago Silva alla Juventus. Erano tre idee così, gettate lì nel mucchio per vedere che la reazione che avrebbe fatto. E quella di Ibrahimovic è chiaramente difficile sotto molti punti di vista, perché per quanto sia affascinante, visto che Ibrahimovic ha sempre corrisposto quella attrattiva, è evidente anche che in questo momento i rapporti fra Mirabelli e Raiola rimangono freddini. Sì. E Ibra è il suo soldato più fedele, no? certo. Di Raiola. Per quel che riguarda invece poi il discorso tecnico, io credo che Sua Maestà Ibrahimovic comunque deve ancora recuperare da un gravissimo infortunio, quindi prima di novembre non sarà disponibile. Detto, io per puro caso sto guardando alcuni dei tantissimi gol che ha fatto Diego Costa quest'anno con la maglia del Chelsea. È un altro dei nomi gettonati e secondo me è un altro profilo, sto parlando dal punto di vista tecnico, dei giocatori, che è il prototipo di giocatore che farebbe comodo al Milan. C'è una prima punta vera al di là di tutti gli altri. Tanto è vero che il Milan ci ha anche pensato, però... Jorge Mendes, che il suo agente l'altro lunedì nel blitz di Fastone Mirabelli Costa Smeralda è stato molto netto nel comunicare loro che ormai Diego Costa ha fatto sua scelta. Atletico Madrid. Andrà all'Atletico Madrid. Sì. E quindi quella sposta è chiusa, mentre invece cambiando ruolo vediamo oggi cosa accadrà lì per Renato Sanchez, perché Ancelotti ha tolto dal mercato, però il ragazzo vuole giocare e il Milan è interessato. Io un giocatore che mi porterei a casa anche se in prestito, però è un giocatore che mi porterei a casa avendo bisogno di un centrocampista con quelle caratteristiche, mo piglierei. Intanto tra poco abbiamo un volo per Dubai. Franco da Foligno, un giro anche lì lo facciamo con grande piacere. 800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. A lei, di che parliamo? Senta, volevo fare una domanda al dottor Laudisa. Eccolo qua. Da milanista, volevo sapere, ma come mai Bonucci e Biglia non giocano il giovedì? Non è tanto una domanda di mercato. C'è quel problema dell'iscrizione, no? Del tesseramento, riferito anche a quelle deduzioni che adesso la società aspetta di e garantire attraverso il nuovo bond, quello in Austria, che verrà evidentemente, diventerà operativo da qualche giorno. Diciamo che c'è stata una accelerazione mancata per quel tesseramento. Vedremo, c'è sullo sfondo tutto il futuro del club rossonero, che fa sapere di avere tutte le garanzie economiche per andare avanti, e per come si sta muovendo evidentemente è così, i denari ci sono, noi siamo lì per vedere, ma certo siamo alla finestra, però mi pare che il resto siano masturbazioni mentali, no? Cioè il Milan, le fideiussioni, cioè non giocano perché stanno aspettando il tesseramento, quanto al resto lo scopriremo vivendo, mentre Carlo, facciamo anche un salto a Napoli. Andrea, salve, mi sentite? Bene, forte e chiaro. Buongiorno. Due parole sul mercato del Napoli. Si leggono cose un po' come dire contraddittorie, cioè chi dice che hanno fatto bene, c'è chi dice che hanno fatto male. Secondo me è stato un mercato astuto. È stato un mercato, mi scusi, ho sentito male. Astuto. Strategico, astuto, sì. Perché praticamente a mantenere una filosofia, diciamo così, fergusoniana, cioè mantenere più o meno il blocco, lo zoccolo duro, che comunque si conoscono a memoria, giocano a memoria, e fare dei piccoli inserimenti, chiaramente solidifica quello che è un qualcosa che porta risultati, altrimenti se stai sempre lì a cambiare, i risultati non vengono. Io sono cose che vado ripetendo tutti i giorni, grazie per averlo fatto lei oggi, così me la risparmio. Invece, comunque sono d'accordissimo ovviamente, invece voglio chiedere un'ultima cosa a Carlo Laudisa, visto che appunto stiamo per prendere un metaforico volo per Doha, che fa il Barcellona? Certo, Barcellona non è una squadra che ha problemi di quattrini, mai avuti e mai ne avrà. Ma cosa fa con le saccocce piene di denaro che sta arrivando dalla questione di Neymar? Siamo alle ultime schermaglie, perché l'intento di Barcellona vuol difendere la posizione anche per una questione proprio di etichetta. di orgoglio, sì, etichetta, come dice, mettiamo come vogliamo, è preventivato e sta scontato che sarà un esperto per Mbappé, e lì si apre un'altra storia molto intrigante, perché lo sappiamo, Zidane e il Real Madrid sì, da tempo hanno messo gli occhi su questo talento francese del Monaco, e quindi anche il Manchester City. Io l'altro giorno faceva scalpore che per Mbappé ci fosse l'offerta 160 milioni. Di questo passo io credo che Mbappé verrà a costare quanto Neymar. Perché questa è la Ma tanto, dai, tanto non ci sono valori di mercato, questi non sono valori di mercato, sono semplicemente delle cifre scritte su degli assegni sono che sono inarrivabili. Sono degli asset economico-finanziari. Carlo, però non puoi parametrare, cioè, sono valutazioni, sono quotazioni talmente assurde che non sono termini di riferimento di paragone. Poi credo anch'io che il Barcellona andrà su Mbappé e credo anche che sia l'idea migliore. Intanto ti ringrazio, ci sentiamo molto presto, Carlone. Grazie, Carlo Laudisa. Dunque, traffico, poi tutti a Doha. Tutti convocati. Convocati. Vem magareia rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Messi, adesso spazio, c'è Neymar largo, tutto solo, servito Neymar, in area, Neymar! Si è addormentato il Paris Saint-Germain, Messi e Neymar ne approfittano, segna il brasiliano, 1-0. Iniesta. Se la cavano con disinvoltura, zio, anche quando sono in difficoltà questi. Iniesta. Mette a sedere un paio d'avversari, avanza l'illusionista, serve Neymar, la porta è vuota, è un gol fantastico del Barcellona, di una squadra fantastica, lo firma Neymar. Qui attenzione al Barcellona, però ancora aperta la difesa del Bayern, Suarez guarda Neymar, lo cerca ancora, Neymar mette giù, Neymar! Punisce ancora Neymar con il destro sul primo palo, batte Neuer e adesso sì che il Barcellona è praticamente a Berlino. Allora, vi ho detto si va a Doha sulle tracce di Neymar, pilota al volo Marco Bellinazzo. Ciao Marco. Ciao Carlo, allora, buon pomeriggio a tutti. In alcuni passaggi il tuo I veri padroni del calcio, l'ultima tua fatica letteraria, sembrava un romanzo di fantascienza. Dici no, questo è impossibile e invece lo stiamo vedendo con il caso Neymar, per cui... Insomma, non ce la vengano a raccontare col fair play finanziario. Raccontami il giro. Allora, pagano lui per pagare il PSG, per comprarsi, eh? Sai, qui parliamo di un'operazione che si porta veramente in un'altra epoca, in un'altra galassia, in un'altra dimensione del calcio, la dimensione dei veri padroni del calcio, non per autocitarmi, ma gli aspetti tecnici che si stanno evidenziando sono proprio frutto di questa trasformazione, nel senso che a quanto pare, poi ti dirò la mia opinione, sì, ma a quanto pare la struttura finanziaria dovrebbe essere questa: il Qatar Sport Investment, che è il braccio armato nel campo sportivo del fondo sovrano del Qatar, dell'Emiro Altani, sì, è proprietario del Paris Saint-Germain, ecco, pagherebbe un contrattino da 300 milioni al brasiliano Neymar per renderlo testimonial dei mondiali del 2022, quelli contestatissimi. Sì, certo. Con questi soldi, una parte di questi soldi, 222 milioni a spiccioli, Neymar pagherebbe, quindi in prima persona, la clausola rescissoria famosa, sì, sì, liberandosi dal Barcellona e accasandosi poi al Paris Saint-Germain come un qualunque parametro zero. Parametro zero, cioè io ti faccio un bonifico e tu fai un assegno a Filippo Aureggi in regia. Esattamente, più o meno questo è quello che tutti i giornali del mondo, insomma, sì, stanno delineando come scenario finanziario per far sì che il Paris Saint-Germain non violi ora i paletti del fair play finanziario. Ma che paletti? Ma quali paletti? Di che paletti stiamo parlando? Allora, ci sono due aspetti, Carlo, che vorrei sottolineare. Da un lato che se noi vogliamo parlare di fair play finanziario e di norme contabili, in realtà l'operazione Neymar, se fosse normale, quindi senza queste escamotage, quindi con il Paris Saint-Germain che paga la clausola, prende Neymar da 30 milioni all'anno, ebbene, facciamo bene i conti, non sarebbe così incompatibile con le regole del fair play finanziario, per una serie di motivi che sarebbe ora lungo a spiegare, sì. Ma di fatto, avendo il Paris Saint-Germain catariota, un fatturato che ormai viaggia sui 540 milioni, potrebbe anche permettersi Neymar, perché l'ammortamento, diciamo, di questo mega contratto, di questa clausola rescissoria, sarebbe comunque possibile, sarebbe garantito, sì, all'interno delle norme. Esattamente, sì, sì. Esattamente, diciamo, sarebbe al limite, ma non così palesemente contrario ai principi, sì, finanziari, questo escamotage contro il quale le vecchie potenze, e qui torniamo ai veri padroni del calcio, per cui non ci voleva, neanche delle menti eccezionali per fare, questa cosa, cioè ti do i soldi e tu paghi. Senti, io sinceramente insomma non sono dimmi la tua opinione dopo che abbiamo sentito quella di Tavecchio sul caso Neymar. Guarda, io aspetta, credo aspetta che... sentiamo Tavecchio, sì, e poi Beninazzo. Ah, guardi, voi state entrando in una situazione che in questo momento è nuovissima, noi non abbiamo ipotesi di testimonial per un mondiale e dobbiamo, secondo me, il mondiale deve essere rappresentativo di persone limpide, pulite e alla luce del sole come sono sempre state. Queste situazioni che io ritengo anomale e nessuno può dirmi il contrario, le valuteranno gli organi internazionali, la FIFA che è deputata al mondiale. Anomale. A me non sembrano così anomale, non so a te. No, assolutamente no, ripeto, se entriamo nella dimensione del nuovo calcio in cui ci sono dei governi, che sia la Russia, la Cina o nel caso specifico il Qatar, che hanno messo le mani sul calcio e vogliono governare il calcio, e dall'altro avremo le grandi vecchie nobili del calcio europeo che non a caso proprio in queste ore stanno cercando di equalizzarsi, mi riferisco a Barcellona, al Real, al Bayern Monaco, alla Juventus, per frenare questo eccesso di, sì, protagonismo del Qatar. Ecco, la UEFA secondo me non può, se ha chiuso un occhio già per il Paris Saint-Germain con quei contratti interni di cui abbiamo parlato, sì. In questo caso sinceramente accettando una situazione del genere perderebbe assolutamente la faccia, e mi risulta insomma che ci sia in queste ore un confronto molto serrato insomma tra Paris Saint-Germain, il fondo del Qatar e la UEFA per evitare quello che sarebbe proprio uno schiaffo, altro che pugno di Gallinari, guarda, si sfascia, la mano anche la UEFA, se prova a dare un pugno a questa situazione. Perché altrimenti poi entriamo direttamente nella NBA del calcio, quella Superlega di cui spesso abbiamo parlato. Ma infatti lì andiamo, vedrai. E secondo me è giusto che lì si vada. No, Giuseppe da Lamezia Terme vuole intervenire nel discorso. Prego, imbarcato anche lui subito. Buongiorno, dica. Buongiorno a lei. Insomma, io sentivo questa interessantissima discussione in merito, diciamo, a questi giocatori, però volevo fare, intanto avevo chiamato per fare una domanda sulla Juve, sì, però prima volevo fare una specie di considerazione di questo tipo. Cioè, secondo me ormai, più che parlare di calcio, noi parliamo di economia, cioè di soldi che vanno, vengono, di fondi, cioè secondo me si sta un po' perdendo il gusto proprio del... Non da oggi, Giuseppe. No, non mi riferisco a voi. No, ma dico non da oggi, cioè già da un bel pezzo che si fanno, esatto, discorsi di questo tipo. Esatto, che secondo me perde un po' proprio la poesia proprio del giocatore, quello che è più bravo, quello che è meno bravo, insomma, cioè, del gesto tecnico. Un romanticone. No, non è No, ma perché insomma questa dimensione secondo me si è persa, ed è comunque cambiata, ad esempio con l'avvento di Berlusconi al Milan, poi l'economia, il calcio, la politica, insomma, certamente non sono questioni nuove. Voleva aggiungere altro? Sì, dica. E poi sulla domanda per la quale avevo chiamato, che è questa qui, volevo sapere come mai la Juve fa così difficoltà, diciamo, da due anni a trovare un centrocampista come di livello, quello che gli serve, insomma. Cioè, già dall'anno scorso, poi abbiamo ripiegato su Hernanes, però sì, vedo che ancora c'è questo problema. Solo questo. No, guardi, Hernanes è storia di un paio d'annetti fa abbondanti. Non, insomma, quella era una situazione del tutto diversa. La Juventus non fa fatica a fare nulla, e l'ha dimostrato l'anno scorso, sta dimostrando quest'anno. Con Marco Benignazzi invece volevo andare velocemente su un altro argomento, perché sì, non si vive di solo Neymar. Perché infiamma gli ascoltatori, infiamma il pueblo, anche oltre ai limiti del lecito, il battibecco a distanza tra Pallotta e Fassone. Anche di questo ha parlato Tavecchio. Tanto qui bisogna vedere le fonti e gli investimenti. Se gli investimenti, secondo chi li fa, li tiene produttivi, con mezzi propri può fare quello che vuole. Poi la valutazione politica è un'altra. La federazione non può restare attonita, vede questi fatti, ma non può fare niente. Allora, Marco, ieri sono stato preso per le orecchie da un ascoltatore, gradevolissimo comunque, che mi ha detto: lei aveva detto che questa intrusione di Pallotta nelle vicende del Milan era in debiti inopportuna, doveva stare zitto. Ognuno è libero di dire quello che vuole. Quello che penso io è che in un paese come l'Italia i processi sulla pubblica piazza sono all'ordine del giorno, e quindi questa diatriba fa discutere. Sì, è una diatriba che solo apparentemente si è chiusa, perché se leggiamo l'ultimo comunicato della Roma e di Pallotta, chiaramente fa le sue scuse al Milan, ma qualora appunto avesse informazioni imprecise. Questo termine, questo aggettivo, insomma, ci dice che chiaramente è tutt'altro che pacificata la diatriba, anche perché si ripeterà in campo, perché si lotta per la Champions e per la sopravvivenza a un certo livello per queste squadre. Indubbiamente era nelle forme, insomma, inopportuna, si deve sempre mantenere un certo bon ton. Ci può essere il legittimo dubbio da parte di una proprietà diversa chiaramente da quella del Milan, sì, sul fatto che si stia facendo magari un po', stia andando un po' oltre quelle che sono le reali possibilità. Ma tu, da studioso della materia, hai qualche legittimo dubbio in proposito? Guarda, io posso avere tutti i dubbi di questo mondo, ma al momento li tengo per me, per una semplice, qualora li avessi, insomma, li terrei per me, sì, per una semplice questione, che esprimere dubbi sull'operato dell'attuale dirigenza del Milan può essere plausibile solo quando ci saranno, come dire, i documenti, gli atti da cui si potrà capire se si sta andando oltre le reali possibilità economiche di questa proprietà, certo, di questa dirigenza. Quindi, certo, sarebbe, diciamo, inopportuno anche da parte di noi giornalisti, insomma, criticare a priori o dire a priori che il Milan sta spendendo troppo. C'è da dire che indubbiamente, rispetto a quelle che erano state le potenzialità economiche di Lee Jong-yong e dell'attuale proprietà, indubbiamente l'attuale spesa ha stupito. C'è il discorso del problema finanziario: il Milan sarà comunque oggetto di sanzioni, vediamo se attraverso il voluntary o il settlement agreement, cioè attraverso, sì, un accordo con la UEFA, piuttosto che delle sanzioni autonome, perché 250 milioni di rosso su un limite di 30 di tolleranza, sì, pagherà la sua luxury cap, sarà una sorta di luxury cap, tax. Potrebbe esserci un blocco del mercato, diciamo, eventualmente sull'anno prossimo, sì, però poi bisogna vedere se questi investimenti, se tutto questo sforzo economico porterà risultati anche sul campo e di conseguenza anche sul fatturato, perché se una cosa ci hanno insegnato Real Madrid, certo, Barcellona, spendi però devi vincere in questi anni, esattamente, devi vincere, e a quel punto si esce da monopoli e si entra su un prato verde, questo è normale, questo, ed è anche normale, è così. Chiaramente, io ho sempre detto, c'è uno sparacchio e una garanzia per il Milan. Lo sparacchio, appunto, è Elliott, che ha in mano, certo, che ha in mano giuridicamente la società. La garanzia è che la squadra è stata, diciamo, rivalutata come asset, no? È chiaro, perché sono giocatori indubbiamente importanti. Elliott sicuramente non è un fondo che ha dimostrato che gli piace perdere soldi, farebbe di tutto. Chiedere informazioni ai signori argentini, appunto, e a chi aveva i money bond. Marco, io ti ringrazio tanto per aver, grazie Carlo, averti sottratto allora un 10 minuti di vacanze. Ci fermiamo per la borsa, che non dorme mai come noi, e poi si va al bar, si parte dal bar e si va sui Colli Bolognesi. State con noi. tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Sessanta, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza. Di frecce con dietro, attaccata a una targa. Dammi una speciale, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Allora, questa volta, e ne ho le prove, non ho avuto bisogno di suggerimenti, una volta nella vita, perché avevamo già estratto il bussolotto di questo pezzo, prima ovviamente dell'intervento del proprietario del bar da cui partiamo per i Colli Bolognesi. È un bar nuovo, appena aperto, che si chiama Toletti. Buongiorno signor Toletti. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Intanto ti confermo che sono sui Colli Bolognesi in questo momento. Sei al bar ad aspettarci, no? Aspettare me e tutti gli ascoltatori. A proposito, 800240024, aspetta un attimo, finisco alle 3. Tu mi hai chiamato Toletti, ma non sei il primo. Quando facevo questa trasmissione del mattino al Giro d'Italia, sì, fino a qualche anno fa, poi hanno fatto altre scelte perché sai, lavorano bravi, con tanti bravi naturalmente, bravi. Però tante persone dicevano buongiorno signor Toletti, come sta? Tutto bene? Alla fine io posso permettermi di fare un Bartoletti, sono pochi altri, non so, Barbareschi, Bartoletti. No, Bartoletti è la lettura fresca di stampa del professor Marino, che così ha sfidato Facebook, ha vinto la sfida e io ne sono felice perché sono l'essere umano meno social che io possa conoscere, che io conosca. Poi se c'è qualcun altro, vi prego, fatevi avanti. Guarda Carlo, se l'ho fatto io, credo che lo possano fare veramente tutti, compresi i miei allievi in gamba come tu. Io ne la faccio, guarda, la mia password di Facebook è Carlo Facebook, così tutti potete entrare, intervenire e anche frugare. Tanto non però ho questo così non ho segreto. Facebook non è pretenzioso, in realtà no. Quando io ci sono entrato vincendo molte resistenze, soprattutto con me stesso, esattamente un anno fa. E con chi? Però sai, tutti mi dicevano devi fare le cosine di due righe, mi davano le istruzioni per l'uso, io ho cercato di essere me stesso, raccontando la mia vita, le mie esperienze, le mie contaminazioni, le mie amicizie a 360 gradi, aggiungendoci qualche foto, qualche brano musicale. Pensa che questo è un libro multimediale, perché grazie al QR code si possono anche sentire le canzoni che cito. Ormai mi faccio paura quasi. Che abbiamo creato un mostro. Sì, veramente un mostro. Io sono anni che facevo molta resistenza, che mi dicevo di scrivere un libro perché avevo i miei motivi per non farlo. Ho scritto tanti anni fa un libro su Lucchinelli, ho fatto una cosa con Bearzot. Però un libro vero e proprio, a parte 4-5 incipit che si erano fermati la prima pagina, non l'avevo mai fatto. Fino a che un editore, un po' di tempo fa, mi ha detto non hai più scuse perché il libro l'hai già scritto. Esatto. E ha raccolto un anno di mie esternazioni. E forse l'hai visto a 360 gradi. Sì, qui c'è sì, anche la foto di un Bartoletti senza basca. Lo so, non è inedita per me, perché ti avevo già visto in quelle condizioni, caro professor Toletti, proprietario dell'omonimo bar. Senti, andiamo invece sui Colli Bolognesi, partiamo dal Bartoletti, perché sui Colli Bolognesi siamo saliti con grandissima goduria e libidine, non solo del nostro comune amico Leo Turrini, ma di tutti noi. Domenica, no? Dalle Rosse a Greg Paltrinieri e tutto nel raggio di non so quanti chilometri? Da Maranello a casa Paltrinieri? Maranello è sotto i 40 chilometri. Sotto i 40 chilometri? E dove sto io in questo momento? Sotto i 40 chilometri c'era c'era la Ferrari e c'era un campione del mondo consacrato ormai come mostro. E poi non correva la MotoGP, se no correva il rischio che c'era anche la... E non c'era la sovrapposizione. Aspetta un attimo, arrivano domenica da Brno, eh? Aspettiamo anche lì. Comunque, bella domenica, no Marino? Domenica fantastica, devo dire, dall'inizio alla fine, sinceramente con tante emozioni che neanche uno sceneggiatore di grande fantasia avrebbe potuto scrivere. Poi abbiamo appreso dopo, comunque lo avevamo capito strada facendo, come direbbe il poeta, naturalmente, quali sono state le difficoltà di questo Vettel. Io ho visto il mio amico Leo Turrini parlare poco dopo a Sky, ho immaginato sotto quel tavolo l'ultima erezione della sua vita. Ma sai perfettamente com'è, cioè non era ancora terminata lunedì, ieri, quando l'ho sentito, eh. Cioè era ancora in quelle condizioni lì. Guarda, la Ferrari fa felici veramente tutti. Prima forse eri indaffarato con la scaletta della seconda parte della tua bellissima trasmissione, ma durante la borsa hanno detto che la Ferrari è ai massimi storici. Certo. Con buona pace di Marchionne. Invece Marino, faccio anche a te una domanda inopportuna e quasi perversa, però l'ho fatta ieri a Rosolino e a Giovanni Bruno. Mettimi, per quanto riguarda i mondiali di nuoto, mettimi un asterisco sulla tua medaglia preferita. È chiaro che ti chiedo di fare una distinzione tra i tuoi figli sportivi, però io te lo chiedo lo stesso. Cioè, fra quello che mi ha fatto più godere domenica scorsa? Sì, tra le medaglie che sono uscite da questo mondiale di nuoto, Detti, perché è Caimero, sinceramente. Allora, come Rosolino. La storia negli 800, sinceramente, battendo sempre in questa sceneggiatura piuttosto fantasiosa quello che è suo fratello, suo maestro, ma quello che lui non era quasi mai riuscito a battere, con quello sprint finale, detto da uno come me che se non ha la paperella foga, beh, sinceramente mi ha veramente molto colpito. Quella è una vittoria storica. Paltrinieri ci ha abituato bene, per cui era quasi scontato che facesse l'ennesima impresa. Paltrinieri non ha ancora 23 anni. Certo, quindi, certo. Detti, con quella cosa eroica, ha fatto una cosa, credo, sinceramente inattesa. E poi ci ha portato a casa una medaglia d'oro che, insomma, Dio sa quanto la merita. Beh, ma lì nelle piscine, guarda, non ce la caviamo malissimo, a parte le paperelle. Sai Carlo, io appartengo a una generazione in cui diceva che l'Italia era un paese di santi, poeti, navigatori e per la proprietà transitiva nuotatori, ma in realtà noi non avevamo mai vinto praticamente nulla fino alle Olimpiadi storiche di Sydney, a parte la Caligari sui mondiali. Adesso siamo diventati dei tritoni. sì, no, ma abbiamo qualche, ovviamente qui ricorderà di Biasi Gagnotto nei tuffi. Sì, certo. Sua maestà Lorena Caligari, ma eravamo rimasti fermi lì. Senti Marino, propongo di coinvolgere, ed è molto pertinente, Alessandro da Alessandria. Buongiorno. Buongiorno gente, grazie della convocazione. Io parto dal pugno di Bellinelli, ma non entro di Gallinari. Sì. Ma non entro in merito, perché chiunque abbia giocato sa che a volte può capitare di sbroccare. No, io voglio fare una domanda precisa, aspetto risposta. Sì. Ma questa nazionale, Bellinelli, dei Gallinari, tutti belli a vedersi, coccolati, tutto, alla fine della fiera non vincerà niente. Beh, andiamo giù col pessimismo pesante, però è una considerazione che ha diritto di cittadinanza, perché l'ultimo treno sta passando per questa generazione di forse fenomeni. Marino. Allora Carlo, io ieri sera ero al premio Sportiglia, che ho indegnamente condotto. Il premio Sportiglia celebra come core business gli arbitri che sono lì in ritiro, ma è diventata una manifestazione di dimensioni anche internazionali e premia anche personaggi di tutti gli sport. Il premiato della pallacanestro, che ha ritirato il premio Dido Guerrieri, Giuseppe Guerrieri, il più grande maestro che in quelle zone aveva giù il cappello, al netto di qualche viaggetto a Seattle, eletto il suo buon ritiro. Sentire Carlo Ricalcati è sempre una gioia, è l'unico assieme a Bianchini che ha vinto 3 scudetti in 3 posti diversi, forse se restava a Venezia ne aggiungeva un quarto, ma qui non voglio aprire malinconie e altro, perché anche... Comunque, a proposito di Dido Guerrieri, ti ricordo... Insomma, comunque, Ricalcati è un signore che ha vinto l'ultima medaglia d'argento alle Olimpiadi nel 2004 con una squadra che abbiamo convenuto non era una squadra astrale, perché abbiamo avuto delle squadre indubbiamente più forti, forse anche questa, che addirittura 3 giocatori della NBA, però soltanto Carlo con quei personaggi poteva conquistare quella medaglia d'argento meraviglioso che tutti ricordiamo e che tu sicuramente ricordi. Beh, da allora, dopo quella medaglia d'argento, non siamo più andati alle Olimpiadi. Non lo so bene. Questo per la mia generazione, forse anche per la tua, è una valutazione inconcepibile. Allora, cosa succede? Siamo emarginati ai confini del grande basket, non riusciamo più a trovare un senso. Lui ha dato una risposta non banale, seguendo un po' nel mio ragionamento, che quella non era una squadra eccelsa rispetto ad altre, rispetto a quella che prese la medaglia d'argento a Mosca, per esempio. Però Marino, era una squadra. Era una squadra, esatto, ma ha detto esattamente questo. Quella era una squadra. Questa non è una squadra, è una cozzaglia di personaggi dove anche i talenti individuali non riescono a dare nulla al progetto. Certo, guarda, io ricordo di quella squadra Pozzecco che piange sotto un asciugamano dopo aver perso la finale, che è un'impresa mostruosa contro l'Argentina. Come ha detto Recalcati, non era la sconfitta in una finale, ma era la conquista della medaglia d'argento. Ma è chiaro. Avevi battuto la Super Lituania 24 ore dopo l'Argentina di Ginobili e hai perso giocando per l'altro una splendida partita. Di quella squadra mi ricordo lì ad Atene Bulleri, Garri e c'era qualcun altro che adesso mi sfugge, ma se vuole può intervenire perché sono testimone oculare. Fermo a un taxi con Bulleri che in vernacolo livornese insulta tutti i tassisti che non si fermano. Quindi di cosa stiamo parlando? Parliamo invece, Marino, per chiudere, di un signore della notizia di oggi che andrà su quella panchina e si chiama Romeo Sacchetti, che qualcosa, la maglia nazionale a partire da Mosca 80 ha vinto. È un altro che secondo me è riuscito a ottenere dalle squadre più di quanto le squadre stesse valessero, perché lui ha veramente vinto in terra di frontiera dove nessuno avrebbe mai immaginato che si potesse vincere uno scudetto cestistico. Una volta si parlava di Cagliari, casomai come punta d'eccellenza della pallacanestro sarda ai tempi di Sutter, forse lo ricorderà. La Brill Cagliari, esattamente. Sì. E il fatto che abbia conquistato questa cosetta e secondo me sia forse la persona più idonea per darci un pochino di dignità, beh, questo mi lascia sperare, perché lui sai, non essendo stato un grandissimo giocatore, ma un meraviglioso gregario, lo dico veramente facendogli un complimento, secondo me rappresenta l'allenatore ideale per ridare senso, dignità e bussola a una squadra, perché i grandi allenatori che sono stati grandi giocatori, evidentemente Recalcati è stato l'eccezione che conferma la regola, molto spesso non hanno saputo trasmettere il loro talento che era dato per scontato ai giocatori che allenavano. Sacchetti sa trasmettere il sacrificio e la sofferenza, ecco, credo che sia veramente la persona giusta, è un Gamba 2.0. Certo, Gamba 2.0, 800-24-0024 a proposito di numeri, e come normale che sia in un mondo civile, sportivamente parlando, ha appena firmato con Cremona, ma non è che rescinde il contratto, fa il doppio incarico. Io veramente non mi indigno per i doppi incarichi. Ma ci manca, anzi, secondo me è la soluzione che dovrebbe essere, cioè una soluzione sì, che più casomai se uno abita in Italia invece che in America è meglio, ma questo questo è un altro discorso, certamente. Marino, non sto a chiederti di Neymar, anche se avrei voglia, e di tutte le cose che si dicono intorno a questo affare, eccetera, a quelle cianfrusaglie che si chiamano fair play finanziario. Che altro vuoi aggiungere? Io non mi indigno più di nulla, perché certamente non ho più l'età per indignarmi. Mi fa un pochino sorridere, perché credo che purtroppo Neymar, che non è costato poco, non cambierà la storia di quella squadra. E è passato il tempo dei taumaturgi, penso che i francesi questa volta finalmente prenderanno una bella scottatura e alla fine si incazzeranno. Poeta, i francesi che si incazzano. Grazie maestro, un abbraccio, a presto. Ciao Marino Bartoletti. Bartoletti è in tutte le librerie, lasciamolo certo. Dire, almeno in quasi tutte, ma poi soprattutto anche sugli scaffali del Bartoletti, no? Assolutamente sì, assieme a tutto quello che desiderate, perché è tutto gratis, basta che entriate e scambiate un'occhiata col gestore, che è un signore coi baffi. È un signore coi baffi. La cedrata ce l'hai? La cedrata è in prima fila assieme al chinotto. E alla spuma. C'è anche la spuma. Ah vabbè, allora vengo. Aspettami lì, ho ancora 10 minuti di programma con gli ascoltatori. 800-24-0024. Grazie Marino Bartoletti. A dopo. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Tutti convocati. Io resto indignato dal fatto di non veder lampeggiare il monitor con le chiamate 800-24-0024. In fondo è solo il primo agosto e tutti saranno ovviamente lavorare, indaffarati, e quindi pienamente operativi, no? Vi aspetto in attesa dell'Audicar. Vabbè, anche stamattina mi hanno chiesto: ma cosa provi nel vedere il Napoli che gioca questo torneo mostruoso? Che cosa volete che provi il primo agosto? Non provo libidine. Madonna. Pardo! Eccolo, come va? Ciao, come stai? Bene. Le cronache raccontano di un Pardo schifosamente abbronzato, dimagrito. Dimagrito no, perché mangio veramente come se non ci fosse un domani. Non me lo dire. Vi ascolto sempre, sono pronto a tornare, grandi vacanze, grande Ponza, Palmarola, Monza Italia. Ci siamo, non dico che stai spendendo gli ultimi gettoni, però voglio dire, con l'inizio del campionato ovviamente torna Pardo, torna tutta la compagnia di giro. Esatto, tra una settimana sono a Skopje per la Supercoppa Europea, che tra l'altro quest'anno è Real Madrid Manchester United, e poi c'è il preliminare, e poi insomma, comincia tutto, dai. Cominciamo dai preliminari, Sì, sono praticamente un calciatore con un altro tipo, questa è un po' la tipologia, capito? Adesso tra un po' si ricomincia, sì. Da metà agosto, diciamo, convocati giorni, insomma, tante. Ma io vi seguo. No, certo, anche il tuo telefono, il tuo fidato telefono è sempre con te, noto con grande però gioia. Sì. Stavolta è abbastanza innocente, perché sono veramente in mezzo al mare. Quindi, no? Sei in mezzo al mare. Sì. Però per l'anno prossimo ho grandi novità, eccezionali. Senti, ma cosa mi dici di Neymar? Dimmi solo questa. Ma soprattutto dimmi qualcosa sul fair play finanziario che mi faccia un po' meno ridere del fair play finanziario stesso, che è la più colossale barzelletta degli ultimi neanche Gino Bramieri. Però a me le società che hanno fatto, che magari cercano di arrivare a Mbappé pronte a spendere 140 milioni, faccio un esempio, insomma, che hanno soldi e che li spendono, che si dicono indignate, no? Che fanno proteste ufficiali per Neymar, mi fanno un po' ridere, nel senso che A me non piace l'idea che, a me non è piaciuto il Manchester City che improvvisamente, dopo una storia complicata, arriva un grande proprietario da fuori e diventa una big, lo stesso discorso per il Chelsea, lo stesso discorso per il Paris Saint-Germain, cioè sono storie che trovo un po' artificiali, quindi non mi fanno impazzire, mi piace più l'idea romantica del calcio, però poi alla fine, visto che la strada è questa e il mercato è il mercato, mi fa un po' ridere sentire adesso le proteste di queste altre big, no? Cioè, se il mercato è il mercato, il Paris Saint-Germain ha questi soldi, fa questo investimento. Io penso, ma questo l'abbiamo fatto mille volte come discorso, che l'equilibrio, il valore dell'equilibrio faccia bene al calcio. Cioè che quel meccanismo che c'è, per esempio, nell'NBA, tra salary cap, prest... questa roba qui però devi portarlo tutto quanto di qua, e mi sembra una cosa un po' più improbabile rispetto ad oggi. È impossibile, no. Però il vero tema è quello. Allora, se c'è quel meccanismo lì che io preferirei, secondo me ci divertiamo di più. Se non c'è quel meccanismo lì, allora vale tutto. Perché no, se arriva uno che vuole indebitarsi, Pierluigi, vale soprattutto il discorso di mandarti in giro tutte le settimane, a metà settimana, a raccontare un campionato vero di livello europeo a proposito di NBA e di sport americani, mutuato su quell'esempio lì, perché mi sembra molto più facile, molto più logico, ma anche verso quella direzione che scorre il fiume. Andare verso, chiamala Superlega, chiamala campionato transnazionale, inventa tu un nome, però che lo si voglia oppure no, l'equilibrio a questo punto da preservare è quello tra le grandissime, non esiste più sul fronte interno. È impensabile oggi che l'Atalanta, faccio un primo nome proprio perché parliamo di una squadra che ha chiuso al quarto posto l'anno scorso, un campionato magnifico, che l'Atalanta possa competere con... Se l'Atalanta, diciamo, l'anno prossimo sarebbe in Champions League, no? Sì. E quindi con le quattro idee possa competere con una squadra che spende 222 milioni di giocatore. È evidente. Però secondo me questo Superlega già c'è, si chiama Champions League, c'era tanti anni, il meccanismo è un meccanismo che non mi piace del tutto, perché più vinci più fai soldi, quindi i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri, e soprattutto il fair play finanziario è surreale, no? Nel senso che colpisce così random. Poi tanto alla fine se tu hai la capacità di rimpinguare le casse, quindi ti arrivano dei finanziatori esterni, fai come con Neymar, che presti i soldi a te, tu fai l'assegno al ristorante e quello è salato. Ciao Pierluigi! Ciao ragazzi! Ti abbraccio fortissimo! Chi è che dice questo? Ti abbraccio fortissimo! Io ciao dai. Ascoltatori, scusa, mi volete far mancare la vostra compagnia? Vergognatevi, che tutti voi che non siete Angelo, Franco e Fabrizio. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo ribadire quello che ha appena detto il signor Bartoletti. Sì. Secondo me, questi francesi che acquistano Neymar risolveranno ben poco, perché se non mettono attorno a Neymar dei fuoriclasse come quelli che ci sono nel Barcellona, secondo me non vinceranno niente. Sì, anzi, ma messi malissimo non sono, Angelo. Dica. Dicevo, tutto sommato, se il Barcellona va a prendere Mbappé, secondo me ci guadagna ancora lui e risparmia dei soldi. Guardi, secondo me fa una cosa intelligente, fa l'unica mossa che possa davvero, al di là di Coutinho, di Bale, eccetera, eccetera, che possa essere così, anche affascinante, cioè il nuovo talento del calcio mondiale, o così sembra, nel Barcellona al posto di Neymar. Però non è che Neymar va a giocare nella Pro Vercelli, nella Pro Sesto, nella Pro Patria, nella Pro Domo Nostra, va a giocare comunque in una squadra che qualche discreto giocatore ce l'ha già, che nelle ultime edizioni di Champions League non è esattamente stata eliminata ai preliminari, e quindi non risolverà le partite da solo, non è Maradona, però può aiutare, una mano la può dare. Franco, dica. Pronto, sono io? Sì, è lei. Sei sì, Franco, salve, della provincia di Milano, è lei. Sì, allora, a proposito del basket italiano a livello internazionale nelle Olimpiadi, no? Vabbè, a parte che anche a me, è chiaro, erano più simpatici quelli di eccetera, di Mosca 80, però bisogna considerare alcuni. Non ho capito chi le erano più simpatici. Meneghin e compagni, ecco, quindi Sacchetti, quelli che erano lì alle Olimpiadi. Vabbè, 180, sì. Senza gli Stati Uniti, bisogna considerare questo. Sì, però comunque con l'Unione Sovietica e comunque con abbiamo finito con la medaglia d'argento al collo. Erano giocatori cosiddetti con gli attributi, tutto quello che vogliamo, però bisogna considerare alcuni fattori. Prima di tutto, lì c'era Russia e Jugoslavia, certo. Quindi non c'erano né Repubbliche Sovietiche, certo, né la Jugoslavia, certo, che si è scompattata. Poi bisogna poi considerare che una volta i giocatori stranieri nell'NBA erano un'eccezione, le Mosche Bianche oggi sono la regola. Quindi i nostri 3-4 giocatori italiani sono tanti quanti francesi, ma eccetera, non è eccetera. Chiaro. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, che il campionato italiano comunque a causa della crisi non attrae più. No, su questo potremmo aprire una lunga discussione, però su quanto lei ha detto, è ineccepibile. È evidente che un europeo di adesso con Serbia, Croazia, Lituania, e posso andare avanti all'infinito citando la Francia che è cresciuta, la Germania che è cresciuta, è evidente che è molto più complicato di quanto non fosse un europeo quando c'erano l'Italia, la Jugoslavia, la Spagna, che non vinceva mai, non la prendeva mai, oggi un po' la prende, e Jugoslavia, Italia, Francia, Spagna, e poi vabbè, comunque le sappiamo, prima dello sbriciolamento. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno Genta. Buongiorno. Volevo intervenire sul discorso mercato Juve e dire un mio pensiero. Si sta tanto parlando di questo centrocampista che serve sicuramente come rinforzo, di spessore, ma secondo me sta passando sotto traccia il rientro di Marchisio, che se tornerà quello di un anno e mezzo fa, secondo me è un giocatore di livello mondiale e nessuno ne parla. Ma nessuno, guardi Fabrizio, probabilmente nessuno ne parla perché mi sembra un'ovvietà. Cioè, Marchisio è un giocatore straordinario che l'anno scorso ha fatto il suo pur rientrando da un infortunio gravissimo. È chiaro che anche lui ha certe caratteristiche, cioè lui è un top quando fa un ruolo che gli permette gli inserimenti, gli permette di fare gol, eccetera. Se lo fai giocare alla Kedira è un altro discorso, pur essendo uno straordinario giocatore, quindi è evidente che un Marchisio che sta meglio è un valore aggiunto per la Juve. Marco da Prato, e poi se chiude Bottega per oggi, la riapriamo domani. Dica. Volevo parlare del caso Neymar. Sì. Ti presti i soldi, poi te ti ricompri. È una cosa sempre esistita. Io ne sono un chiaro testimone. Anche la mia nonna, mi ricordo, quando ero bambino, mi dava le 2000 lire e mi diceva di andare a comprare il gacciolo. E poi io tenevo il resto. Sì. E quindi cioè, meno male era cosa che si sa. Quanto le dava? Ora le cifre, 2000 lire. Se andato a prendere solo ne ho stato. Allora lei è giovane, perché la mia nonna, quando mi mandava a fare la spesa, mi dava 100 lire e faceva cresta, Quindi. Allora siamo stati portati noi. 2000 lire è tanta roba. Roba comunque. Marco, è un po' la storia è questa, è quella che lei ha raccontato. Più che altro si tratta di un banale escamotage che non ci vuole uno scienziato nucleare per inventare. Allora do i soldi a te, facciamo così, ma tanto il discorso è lo stesso. Poi non dimentichiamoci nemmeno che su Neymar c'era il cartellino del prezzo, e questa è legge. Cioè, se tu fissi la clausola rescissoria a 222 milioni o a 2222 miliardi e ti pagano quella clausola rescissoria, il giocatore è loro. Ciao a tutti ragazzi, a domani. Giorgio De Luca, nostro autore, Filippo Aureggi in regia. Domani alle 14 tutti convocati. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.